grazie. Buonasera a tutti. Niente, io sono Gianluca Rossi, come ha detto, e ho scritto questo libro. Forse ancora oggi non lo so perché. Comunque, avevo visto un articolo sul Corriere della Sera, essendo io della zona, avendo vissuto a Novara e della zona di Milano, adesso abito in provincia di Milano, nonostante tutta la mia cultura sia alpinistica che di vita da ragazzo, anche delle scuole, le ho fatte a Novara e provincia di Novara. Ho letto questo articolo sulle opzioni del 1939, un dramma che aveva colpito la popolazione del Sud Tirolo. Da qui sono andato a ricercare le lettere che sono state pubblicate dalla Fabbrica del Tempo, queste lettere prese dalla censura, tradotte dal tedesco in italiano e poi conservate al Ministero degli Interni. Ho letto queste lettere e devo dire mi hanno emozionato, soprattutto per questi sentimenti vivi di odio, di amore che c'erano scritto in queste lettere, in queste persone. Da lì è nato questo romanzo. Quindi ho preso dalla signora che si chiama Gabriele Chanette, che vive a Lagundo, e suo padre ha avuto una storia, diciamo, è stato, diciamo, sua mamma è rimasta vedova mentre era ancora nella pancia della mamma, e Edoardo mi è venuto come persona che esiste ancora di raffigurarlo come un bambino di quel tempo che aveva 10 anni, e questa donna vedova con un maso a Lagundo e con una malga dove loro andavano durante l'estate. Quindi c'è la vita di questi alpigiani che vivono un po' al di fuori della realtà turbolenta di quel periodo, dove le notizie venivano passate giorno per giorno da parte anche di una propaganda nazista nel comune di Merano e filofascista a Bolzano. Io ho voluto, diciamo, fare un libro in onore a questi alpigiani che vivevano un equilibrio della loro con la natura e con l'ambiente, dove avevano le loro bestie, i loro campi. Però dovevo anche in ogni modo farlo sapere, farlo conoscere il dramma di quel momento che loro subivano. E ho dovuto inserire questo italiano, un italiano novarese, vagabondo, un alpinista, che viene mandato dalla casa editrice, la De Agostini, che effettivamente io sono molto grande con la De Agostini, che gli dice: vai in Sud Tirolo e fammi una relazione sulla vita di questi masi. E lui arriva, naturalmente vede questa intolleranza da parte del sudtirolese tedesco nei confronti degli italiani. C'era questo odio dovuto al fatto anche della soppressione da parte del regime. Lui in ogni modo è un tipo schivo, è una persona, un alpinista, quindi si piazza la sua tendina, chiede solo di stare lì a vedere come vivevano. Riusciva a parlare tramite dei bigliettini che scriveva a questi bambini che sapevano l'italiano, i quali erano obbligati ad andare alla scuola italiana, e di nascosto andavano alla scuola tedesca. E nonostante appunto ci sia questo fatto che non neanche lo consideravano, a parte i bambini, quindi lui si fa amici questi bambini e riesce a creare un rapporto con questi ragazzini, di cui uno 10 anni e l'altro 14, che è già un ometto, perché non avendo avuto il papà è già un ometto, e vive comunque dietro a questa mamma forte, questa donna Eva, la quale ha lottato per portare avanti questo maso per anni, perché era rimasta da sola. Si faceva aiutare anche da un malgaro, che è un personaggio importante, Rupert, il quale vive di questi equilibri molto delicati del rapporto con gli animali, con la montagna, questi gesti abituati dal tempo, cioè seguire più, magari più Masi, e lui dava una mano a chi aveva bisogno, quindi viveva di cose semplici, però era la sua vita. Naturalmente tutti rimangono scioccati da quando c'è stato il 23 di giugno la decisione da parte di Himmler e Mastro Mattei, che era il prefetto di Bolzano, avevano deciso a Berlino che a questo punto il Brenner non si poteva spostare e quindi si spostavano le persone. C'è questa delusione da parte dei sudtirolesi, che loro all'inizio, appunto, il libro parla della redenzione, perché mentre Eva era molto moderata, quindi lei non sarebbe mai andata via dal suo maso come molti contadini e alpigiani, loro piuttosto si facevano ammazzare ma non andavano via. È logico, il cittadino, l'operaio, chi viveva la città, metteva molto in... era molto importante la questione etica, essere tedesco, essere italiano. Mentre a loro non interessava, in poche parole a loro interessava stare nella loro terra, e quindi c'è questo rapporto in cui si litigava anche tra i familiari, appunto Martin, il ragazzo più grande, perché erano tre fratelli, di cui uno era grande, e quindi si faceva un po'... influenzare dalla propaganda nazista e da questa sua fidanzatina che aveva dei genitori che volevano optare per la Germania. Loro italiani non sarebbero fatti mai per nessun motivo, mentre Eva era più pensierosa, cioè lei sperava che comunque qualcosa sarebbe cambiato, era impossibile per lei prendere e trasferire tutta questa gente di là, dalle Alpi, o se optavano per l'Italia, le voci, perché nessuno sa da dove è venuto fuori questa storia che si doveva andare al di là del Po, quindi o in Sicilia o in Abissinia, comunque voci di propaganda o di giornali dicevano: voi sì, optate per l'Italia, ma non starete in Sudtirolo. Quindi c'è questo dramma vissuto giorno per giorno e scoperto da questo italiano che arriva lì e scopre questa situazione, nonostante, logico, loro dicevano: tu vai su in mezzo a quei crucchi. C'era questo fatto, questo disprezzo anche da parte degli italiani nei confronti dei sudtirolesi. E come i sudtirolesi, loro non ne volevano sapere di farsi italiani. Da qui è nata questa storia, in cui nasce questa storia d'amore tra questo uomo, talmente sognatore, così, talmente fuori di testa, come si suol dire, amante della natura, della montagna, e questa donna che non si sarebbe mai messa, diciamo, con nessuno, a parte perché aveva dei principi, però rimane, la Malga è un punto che chi ha vissuto, chi è stato alla Malga, è un posto fuori limite, fuori dalla realtà della vita normale, quindi ti immerge in una natura, in un ambiente che non ti fa vedere, tutto è giù, nella bassa, sopra c'è il paradiso, e quindi da lì si lascia un po' influenzare da questo uomo che così non parla una parola di tedesco, quindi coi bigliettini, tramite, comunque si fa capire e si capiscono. E niente, tutta la storia viene portata a rendere vivo tutto della natura, quindi i tre ragazzi sono rappresentati da tre larici che rappresentano proprio l'alpigiano che vive sulle montagne e ha le radici attaccate come un larice su per le montagne. E questo larice non si potrà mai dire, chiunque, qualunque dittatore vuol spostare un larice e portarlo chissà dove, sa che morirà, perché il larice è attaccato alle rocce, alle zolle, a niente, vive di niente, però quella è la sua terra, quindi non può spostarlo. Per questo i tre ragazzi vengono all'inizio, il libro nasce proprio con questi tre larici che hanno un nome, quindi quindi tutto il libro segue la vita naturale che loro hanno, quindi da fare il pane, il formaggio, quindi è un libro di gente semplice che vive di poco, solo il fatto di andare alla chiesa, alla messa. C'è una predica che viene presa anche dalle lettere, perché tutti i fatti che sono dentro sono presi dalle lettere, quindi sono effettivamente successi, non sono inventati. L'unica invenzione è quest'amore, però tutto il resto è un fatto in cui questo Umberto italiano viene aggredito a Merano, perché sono successi comunque questi fatti che chi voleva optare per l'Italia o spingeva a optare per la Germania, c'erano questi fatti in cui si potevano anche esserci degli scontri per poterli diciamo dissuadere, come anche delle minacce ai preti, per il quale, che loro dicevano state calmi, non state qua, non optate per nessuno, vedrete che poi alla fine Dio provvederà. Per cui niente, adesso io volevo leggervi qualche pezzo di questo libro, tanto per farvi capire un po' la semplicità del libro, perché è un libro semplice, viene dedicato ai semplici, agli umili, alla gente che vive di poco, ma nello stesso tempo rende viva l'Alpe, la montagna. Senza di loro, appunto, poi il fascismo capisce che senza questi alpigiani, basta dire, appunto, viene detto in alcune lettere che sono arrivati degli italiani che hanno preso, tagliato le viti, tagliato le mele e hanno messo i pomodori e altre piante che non c'entravano nulla. Questo fatto, proprio per dire, hanno capito, a parte che non sarebbero riusciti a pagare questi masi, perché ci voleva una montagna di lire per pagare e riscattare. E poi effettivamente la gente andava via, chi mettevi qua? Quindi soprattutto per la città non c'era problema, per le città, ma mentre l'Alpe era insostituibile, l'alpigiano che da centinaia di anni coltivava queste terre. E naturalmente ci sono stati anche drammi familiari e anche suicidi, ci sono stati, qui c'è l'attentativo proprio di un personaggio, proprio per il fatto che arrivava questo sconforto di dire adesso io dove vado, cosa farò, rimarrò, non, dove, cosa andrò a fare in Germania o al sud, anche in Germania, poi i tedeschi li hanno portati nei Sudeti, e quindi in Polonia, e quindi anche poi i sudtirolesi, molti quando è finita la guerra sono ritornati, perché di là la gente, poi sono tornati a casa loro e hanno detto voi cosa ci fate qua, tornate da dove siete venuti. Quindi il dramma è stato, io leggendo queste lettere ho recepito il dramma umano dell'animo delle persone, perché alla fine devi andare dentro, quindi il libro è uscito dal cuore, quindi non è uscito per una questione politica, etnica, assolutamente, è uscito così. Quindi anch'io ancora oggi dico non so come mai, comunque è uscito e l'ho scritto. E rappresenta comunque ancora oggi che lo leggo, perché ho scritto un altro libro, ormai questo qua fa parte di un passato, però devo dire ancora oggi leggendolo mi emoziona, perché effettivamente c'è dentro proprio il cuore dentro. Ecco, lei adesso l'ha letto, che è Gabriele Cenet, e la figlia di Edoardo, l'ha letto e appunto ho voluto prima avere una prima risposta da parte sua, perché quando l'hanno letto anche giù dalle mie parti hanno dato un ottimo riscontro, è piaciuto, chi l'ha letto per la storia, non, nessuno sapeva di questi fatti, perché storicamente le opzioni da noi non le conosce nessuno, non sanno neanche che cos'è, quindi, e quindi hanno apprezzato il libro e la storia. Ancora oggi mi ha chiamato una signora proprio che l'ha letto e diciamo è piaciuto, anche ieri un altro signore, perché anche se è uscito l'anno scorso molti lo stanno leggendo adesso, e mi fa piacere, diciamo il libro è stato scritto per questo, perché ti mandano la mail, ti hanno una telefonata, e quindi questo perché è stato scritto il libro, non per altro. E soprattutto anche lei quando mi ha chiamato da Lagundo, che lo stava leggendo e diciamo era emozionata, gli era piaciuto, quindi questo mi ha arricchito come averne venduti 100.000. E poi l'ha finito e devo dire, niente, noi avevamo una conoscenza così, non è che c'era una conoscenza profonda, poi col tempo siamo diventati amici, perché loro hanno un albergo a Lagundo, quindi dopo c'è stato questo rapporto che è cresciuto, nonostante loro sono proprio sudtirolesi, e questo mi ha fatto molto piacere, perché se lo legge un italiano, e vabbè, Ma leggendolo uno di loro che hanno vissuto quel momento, quel periodo, lei appunto l'ha sentito, ne ha sentito parlare dal papà, che io ho parlato poi con Edoardo, quindi sono periodi che loro non è che vogliono raccontare, con, devo dire, poi un tipo schivo, non è stato facile, e forse perché mi conosceva, se no mi avrebbe detto non ho niente da dire. E invece diciamo ci siamo visti e mi ha parlato un po' di tutto quel periodo. Niente, te, se vuoi dire qualcosa. Allora, la mia madrelingua è tedesca e come seconda lingua ho imparato l'italiano. Adesso io ci provo a leggere. In italiano se faccio qualche errore, allora ci provo. No, per me è la prima volta che leggo un libro intero in lingua italiana perché ho fatto la scuola tedesca. E per me era all'inizio un po' duro di leggere tutto quanto in italiano, ma poi man mano con la storia che mi è piaciuta veramente, che ha anche preso il mio cuore, ho detto lo voglio leggere per forza, tutto quanto. E poi quando ho parlato con il signor Rossi, con Gianluca, sono rimasta tutte volte quando noi ci vediamo, parliamo di questo e anche oggi ho parlato con altre persone di questo libro, subito mi hanno detto ci porti uno perché anche noi siamo adesso veramente interessati di leggere questo. Allora io, per me è la prima volta di stare assieme con la gente e allora io ci provo a fare il mio meglio. Ecco, adesso parlo un momento in cui questo italiano arriva a Lagundo, quindi arriva in una giornata d'estate, intorno al solstizio d'estate, 21 giugno, e quindi è un alpinista, arriva con lo suo zaino e tutto e cerca, dice, dovrò cercare, trovare, naturalmente lì parlano tutti tedesco, cerca, dice, un posto dove poter trovare un maso dove vedere la gente che alleva questi animali. Incontra per caso Eva con il bambino Edoardo piccolino e lo vede fuori mentre arriva la corriera, no? Descrive, perché il libro è descritto, descrive la vita proprio come avviene, quindi è parlato direttamente tra le persone e comunque descrive tutta la storia, è descritta come se fosse vissuta. Molto molti mi hanno telefonato, mi hanno detto mi sembrava di essere là, perché effettivamente io purtroppo scrivo così. E quindi incontra questo Edoardo e gli dice, è l'unico che parlava italiano, male, ma lo parlava. Gli dice, ma sto cercando una malga. Gli parla un attimo e gli dice, ma sì, io ho gli animali, gli dice questo Edoardo, questo bambino. Poi esce sua mamma, loro erano andati al negozio a fare un po' di spese e parte per andare perché Lagundo non c'era, come mi dice Edoardo allora, c'era Lagundo Alto sotto la montagna. Sotto non c'era niente, c'era la strada che arrivava e basta, che andava poi verso la Val Venosta. E da lì lui prende, va e trova una signora italiana che appunto quando lo sente dice finalmente parlo italiano perché di lì nessuno parlava, anzi era sempre chiusa in casa sta donna. Fine dice guarda se vuoi c'è questa malga e lui arriva a questa malga. E niente, incontra Edoardo, al momento manda, fa un bigliettino con questa carta della De Agostini, che ha un profumo particolare, queste carte di allora, no? E gli dice, chiedi a tua mamma se, o a tuo papà, non sapeva se che era morto suo padre 10 anni prima, e se posso stare qui una settimana, pago, e tanto per capire come vivete e tutto. E allora c'è quel momento in cui danno questo bigliettino in casa, e c'è questa reazione dei vari, tra i ragazzi e Martin che invece è tosto, quindi lui gli italiani non li può vedere. Entra in casa, c'erano la mamma, Martin e Edoardo che stava traducendo un foglietto scritto da lui in italiano. Questo è Armin che è il bambino di 14 anni che un po' racconta la storia in lettere normali, mentre il corsivo vuol dire che è in italiano, questo vuol dire che è in tedesco. Quel signore italiano chiedeva se poteva stare con noi una settimana per vedere le nostre tradizioni e fare delle foto. Martin parlò subito dicendo, non se ne parla, noi italiani qui non ne vogliamo, quelli ci controllano e poi vanno a parlare con i carabinieri. Edoardo rispose come se ci tenesse, ma se è di Novara, dell'Italia del Nord? Martin nervosissimo, come se non volesse essere contraddetto. Gli italiani sono tutti uguali, rumorosi, sporcano in giro, buttano qualsiasi rifiuto. Sono gente così. Armin dice, l'ho appena conosciuto, non mi sembra una cattiva persona. Cosa volete capire voi se uno è bravo o cattivo? Io non mi fido, deve prendere la sua roba e tornare da dove è venuto. E qui interviene Eva che abbiamo tradotto questo bigliettino e deve decidere per la sua famiglia. Quindi è lei che decide, è quella che comanda in casa, nonostante Martin 18 anni, lui è l'uomo forte della famiglia. Allora, sentite bene tutti, questo signore ha detto che sta una settimana per vedere come viviamo in questo maso, per cui, visto che i risparmi lasciati da papà sono finiti e abbiamo un conto aperto con il negozio della signora Kroll, mi sembra un attimo occasione per accimolare qualche soldo, a meno che tu, visto che parli tanto, domani prendi Gertrude, la porti al macello, la vendi, poi con i soldi passa a pagare il conto al negozio, va bene? Visto che sei capace solo di sparare sentenze. No, Geltrude non si tocca. Questi bambini dicono tocchiano sei mucche, li ammazzano, poi Geltrude, che era poi nel libro, uno la conosce questa mucca, e quindi i ragazzi dicono no, non si tocca Geltrude, anche se loro avevano ormai i debiti perché non ce la facevano più a vivere con questa, anche con la raccolta della terra. Da quando è morto vostro padre mi sono ammazzata di lavoro per mandare avanti questo posto. La vita è sempre più cara e i nostri prodotti valgono sempre meno. Se va avanti così dovremo vendere tutte le mucche e io andrò a fare servizio in qualche casa. Per cui ora si fa quello che dico io e basta. E i nostri vicini cosa diranno? Il nostro vicino Giovanni, caro Martin, alla fine del mese ha lo stipendio della ferrovia, anche se è malato. Noi non abbiamo nulla, se siamo sani, figurati se siamo malati. Edoardo, scrivi sul retro di questo biglietto, egregio signor. Scrivo in italiano? No, in tedesco, perché noi ci esprimiamo e scriviamo in tedesco. Poi vai da lui e glielo traduci. Allora scrivi, egregio signor, come si chiama? Umberto. Ecco, questo è un pezzo dove vedi questi già contrasti familiari che poi crescono sempre di più, proprio perché poi il regime li pressa, quindi sono pressati di una scelta che devono fare entro il 31 di dicembre. Ecco, qui c'è un pezzo che io ho scritto ricordando un po' le montagne dell'Ossola, in cui mette in evidenza questo fatto che le persone non riescono a comprendersi, non riescono a capirsi, vedono sempre il lato peggiore, quindi giudicano senza conoscere e quindi si disprezzano, anche se solo per il fatto che uno è italiano, è tedesco o è un'altra, adesso poi lo sappiamo cosa succede anche in Europa con le varie etnie che ci sono. Quindi io è uno spunto che cerca di far capire che dobbiamo prima ragionare, visto che ci consideriamo esseri evoluti ed intelligenti, ma tante volte ci comportiamo come i cani che, se uno entra nel suo territorio, cerca di sbranarlo o di allontanarlo. Vidi Edoardo uscire di casa. Lo chiamai. Edoardo, mi faresti una cortesia? Lui sorridente mi rispose. Certo. Senti se tuo fratello scende più tardi a Merano, se potrebbe comprarmi già in stazione un giornale italiano, il Corriere della Sera o La Stampa. Tieni, e gli diedi 5 lire. Corse verso casa mentre usciva suo fratello con la ragazza. Vidi che gli parlava indicando verso di me. Io feci un cenno di saluto. Lui non fece neanche finta. Rispose in modo deciso al fratello. Mentre i due si dirigevano verso il paese, Umberto corse da me. Edoardo corse da me, scusami Umberto, ma mio fratello Martin ha detto che lui non compra i giornali italiani. Se vuoi di andarci tu. Rimasi di sasso, accidenti, pensai. Che terra di contrasto questa qui. L'unica convivenza possibile è ognuno a casa sua. Grazie lo stesso, Edoardo, feci a voce alta. Lui era un po' dispiaciuto e si sedette vicino a me. Ero seduto a fianco del noce, di là dalla strada. Ritirai la macchina fotografica. Arrivò anche Armin e Gabriele. Presi l'ultimo pezzo di pane nero che mi ero portato da casa, tagliai con il mio coltellino svizzero un pezzo di formaggio della Valle Formazza, il Bettelmatt. Aveva un gusto unico, veniva prodotto a quota 2500 metri nell'alta valle verso il Passo Gries, al confine con la Svizzera. Ne offrì un pezzo a tutti, che lo presero volentieri. Sentirete che buono, questo formaggio è unico, viene dalle montagne delle mie parti. La mia mente volò. Sapete ragazzi, lassù vi sono delle vallette verdissime, attraversate da torrenti con un'acqua trasparente e scrocchiante, di una purezza scintillante come se fosse formata da gocce a forma di brillanti. Si sentono solo le grida di pericolo delle marmotte. Mi ascoltarono attenti. In quei posti le giornate limpide e tranquille sono rarissime. Sono zone di contrasto tra il nord e il sud delle Alpi. Punti dove le due correnti d'aria dei due versanti si scontrano. Sono come le popolazioni diverse, per cui per ogni scusa si contrastano, si sormontano, si prevaricano. Ogni tanto sono i venti del sud, da sud che scendono impetuosi verso le valli del nord, ed ogni tanto sono i venti del nord che scendono impetuosi verso le vallate del sud. Le giornate di pace sono veramente rarissime. Mi fermai. Vedete, quel continuo litigare crea una situazione invivibile, anche per la natura. In alto vi sono solo rocce, muschi e licheni. In basso crescono pochi larici, storti, sofferenti, piegati dai venti impetuosi. L'area del nord non comprende l'area del sud. Non si capiscono e non si tollerano, se non raramente. E pensare che in quelle rare giornate sembra di essere in paradiso. Il sole scalda nello stesso modo le due aree del nord e del sud. Le acque nascono dagli stessi ghiacciai, dai quei fiori meravigliosi che un giardiniere sconosciuto accudisce e fa fiorire, sono uguali sia di qua che di là. Eppure dopo breve calma ricominciano a soffiare, a rumoreggiare, a gridare, a prevaricarsi uno contro l'altro e in pochi minuti il paradiso diventa inferno per tutti. Vedete ragazzi, è vero che gli uomini appartengono alla terra, come i venti. Potrebbero vivere in paradiso. Loro lo vedono per brevi momenti di pace, ma poi iniziano di nuovo a litigare, a sormontarsi, a scontrarsi, a contrastarsi e fanno diventare la loro vita un inferno. Quando lo capiranno? Penso mai, ammisi sconsolato. Armin mi aveva ascoltato con attenzione, mi guardò come se avesse capito, mi rispose con voce calma, in un italiano che migliorava di giorno in giorno. È vero, anche qui viviamo nell'inferno, non capisco cosa stia succedendo, sono tutti arrabbiati, discutono, litigano, dicono che gli italiani non ci vogliono. Ma questa è la nostra terra, sono loro che sono venuti dopo. Prima c'era la pace e noi sudtirolesi vivevamo in paradiso. Mi guardò. Siete voi il vento del sud che ci sormonta, ci soffoca, si scontra con la nostra gente. Noi non siamo mai venuti a soffocarvi nella vostra terra. Pensa, Umberto, se a Novara, dove abiti tu, arrivassero i sudtirolesi e da domani tu devi solo parlare tedesco. Non puoi più parlare l'italiano, devi cancellare le tue tradizioni, devi persino cambiare il tuo nome in un nome tedesco. Cosa diresti? Cosa faresti? Lo accarezzai. Forse hai ragione, Armin, ho bisogno di capire prima di dare giudizi affrettati da alpinista sognatore che vive in un mondo che non c'è. Allora vi piace il formaggio? Edoardo, vai a riempire la borraccia che ci facciamo una bella bevuta. Ecco, questo è un pezzo in cui lui arriva e in quei tempi il contrasto era terribile, perché io ho letto le lettere, era veramente un contrasto molto duro. Adesso col tempo ritengo che si sia affievolito, anche se per esempio loro che hanno sia clienti tedeschi, come adesso per esempio da novembre hanno solo clienti italiani, e anche suo papà e i suoi migliori amici sono italiani, quindi non è, e me l'ha detto lui, e me l'ha detto suo padre, i suoi migliori amici sono gli italiani, e con quelli magari del paese si conoscono, sì, si frequentano, ma i rapporti. Quindi non è vero che poi è la nostra cultura e troviamo l'ignoranza purtroppo è la più grande povertà dell'uomo e ci rende poveri. Quindi secondo me bisogna invece non affrontare con arroganza, ma mettersi sul piano, perché anch'io che non ho radici, si può dire, anche se ho scritto un libro di radici, le mie radici sono, vabbè, la Valle Vigezzo, l'Ossola, perché a 2 anni, quando sono venuto via dalla Quil, nonostante sono nato in Valle d'Aosta, io non ho niente in Valle d'Aosta, ho scalato qualche montagna, è finita lì. Però le mie radici sono la Valle Vigezzo. Da 2 anni ci sono andato, e anche se non ci sono nato, mia madre è torinese, mio padre è cremonese, quindi figuriamoci. Una parlava cremonese, l'altra parlava torinese, e quindi anche noi abbiamo parlato solo l'italiano. Quando si andava a Torino si parlava il torinese, perché allora il dialetto era importante. Quando si andava a Cremona, il cremonese, che ragazzi è terribile. E è quasi come il sudtirolese. È un bergamasco più paesano. Comunque ci sono dei termini incomprensibili. E noi li imparavamo, eravamo bambini, sì. Adesso facciamo un altro pezzetto, se non vi voglio annoiare, in cui si vede, dunque dovremmo fare il pezzo della malga, giusto? Sì, questo è 134. 134. Questo qua è un pezzo dove si vede la crisi esistenziale che comincia a avere Rupert. Rupert è un uomo schivo che vive alla malga, quindi lui non capisce queste cose, non le vuol capire, però quando sente queste cose piange, perché non sa come reagire, quindi gli vengono giù questi lacrimoni e vede come punto di riferimento Eva. Nonostante Martin, lui arriva, legge il suo Dolomiten e c'è scritto, quindi c'è questo rapporto anche tra i giornali, perché l'unico giornale che si leggevano c'era il Dolomiten, e dell'unico giornale italiano che non era di partito, di regime, e questo lo dice anche una lettera bellissima di questa Zitakova, che scrive 2 lettere fantastiche che io non ho voluto inserire per questione di rispetto, per questa donna del 39, che uno dovrebbe solo prendere queste lettere per leggere quelle 2 lettere. E lei dice: anche allora, nel 39, donna con una cultura straordinaria per quei tempi, che dice: leggete il Corriere, che è l'unico giornale che non è di regime e vi dice le cose come sono. Questa sapeva delle cose anche sul come si comportava Hitler già allora, nel 39, che dici, senza televisione, la radio era quella che era. Devo dire, rimani stupito dalla cultura di questa donna, che sapeva già delle cose che molti si vivevano di propaganda, ma lei invece era certa nelle sue cose, nonostante era innamorata. Quindi era una donna innamorata che passa dall'amore, quindi del suo fidanzato che vuole andare in Germania, e la razionalità della sua intelligenza. Quindi sono veramente belle. Comunque io per rispetto non ho voluto inserire, perché qui ci sono effettivamente dei pezzi di lettere, perché ho preso e ho fatto vivere le lettere con queste persone. Quindi c'è questa Olga, che odia gli italiani, amica di Eva, questa va a scuola a insegnare a odiare gli italiani, quindi metto proprio questo rapporto duro di questa cultura, e questa che effettivamente è tutto preso dalle lettere, non è che me le sono inventate. E quindi e rimani, per questo mi ha proprio io quando le ho lette sono rimasto colpito, e quindi da lì la mia anima, il mio cuore è uscito di dire. Poi effettivamente vado a dire, ma gli italiani non sono tutti così come dicono tanti nelle lettere, gli italiani sono anche diversi. E Umberto si fa questa domanda, dice: ma perché questo odio quando arriva Novara e fa spinta di scalare la cupola di San Gaudenzio e va su dal Salvatore e gli dice: ma perché? In fin dei conti noi non siamo come dicono loro, noi siamo gente operosa, e descrive appunto le risaie, la vita dell'operosità che c'è nel novarese, no? E quindi c'è tutto questo, e probabilmente è stato questo il messaggio che io, nonostante ho rispetto per questa popolazione e per questa gente che vive l'Alpe, però nello stesso tempo dico: signori, però io non sono come ci descrivete voi, anche magari ancora adesso. Quindi c'è stata proprio questa reazione, e gli italiani non sono tutti così, perché io ne vedo, faccio il commercialista, ne vedo, certo, di tutti i colori, di gente che, ragazzi, mi mettono le mani nei capelli, però devo dire che ci sono anche tanti anche che sono operosi, gente che lavora e produce. Rupert arrivò alla fontana. Vide Martin uscire, si rivolse a lui e disse: «Ma se i proprietari dei masi saranno gli italiani, vedrai che non ci daranno il lavoro a noi malgari sudtirolesi, per cui resteremo senza lavoro, dovremo chiedere l'elemosina o dovremo andare fuori dalla nostra terra». Questo è il contadino che è ignorante, lui non sa niente, lui vive per le sue bestie, per le sue mucche, per le pecore, per la sua vita semplice, quindi fa il formaggio, questa è la sua vita, munge le mucche. Lo guardai, era un uomo, questo è Armin, che comunque è già un ometto, lo guardai, era un uomo semplice, che sapeva fare solo quello, sembrava irrigidito, come se volesse morire, ora, lì, sulla terra, presto non sarebbe servito più a nulla. Si guardò in giro, il sole caldo del Sudtirolo cominciava a dare fastidio, una lacrima scese dal suo volto rugoso e barbuto, assorto dai suoi pensieri di chi non capisce e non vuole capire, si diresse verso la tettoia dove la sera prima aveva fatto il formaggio. Andai vicino alla mamma che stava liberando i cavalli. Il cavallino era cresciuto e scorrazzava contento intorno alla malga. «Ma mamma, perché dobbiamo andare via da qui? Questa è la nostra terra. Andiamo via dove e a fare che cosa? Che persone incontreremo?» dissi. E subito dopo ripresi sicuro: «Mamma, io sposerò Gabriele. E sarò qui e starò qui nel nostro maso». Il bambino, che lui era, c'è questa storia d'amore tra questi due adolescenti nel libro. E quindi lui pensa già di fare, di dire: non vogliamo andare via. Già il bambino che pensa, perché il libro racconta i pensieri, perché noi parliamo, leggiamo la storia, ma non andiamo alle persone. Il libro racconta i pensieri di queste persone. Quindi ti immagini cosa poteva pensare quel bambino. Anche Edoardo, che scrive fa una piccola grotta dove costruisce all'inizio, no? Dove costruisce questi suoi parenti, anche Olga, questi suoi conoscenti, fa delle statuine con i sassi, con le pigne, e le mette dentro come per cercare serenità, perché il bambino è piccolo, ha 10 anni, quindi non può capire, però vede questo litigare, questo discutere, quindi vorrebbe avere, si crea un suo piccolo mondo di pochi pezzi del libro, dentro in questo piccolo antro sotto un larice, in questa valletta dove ci sono questi tre larici. Scusami, adesso risponde Eva. «Armin, non permetterò a nessuno di allontanarci dal nostro maso, dalle nostre montagne. Noi siamo questa terra, siamo come quei larici lassù, viviamo di poco, sopportando venti e tempeste, freddo e caldo. Non sono e siamo felici qui. Nessuno ci sradicherà. Perché come loro anche noi moriremo senza la nostra terra attaccata alle nostre radici». Ecco, questo è già il messaggio di Eva, che lei era dura, ma gliene fanno poi durante il libro, gliene fanno, perché effettivamente non pensiamo che questa storia d'amore effettivamente non era possibile. Ecco, qui adesso facciamo un pezzo in cui c'è proprio questa grossa litigata su alla malga, in cui arriva Martin, che era sceso a fare fieno, c'era su anche Umberto, ma quando vede arrivare prende, va in disparte nella sua tendina, perché ha visto che la situazione non era delle migliori. Arriva lui con la sua ragazza, Caroline, la quale nettamente... Ecco, qui c'è anche Olga, la quale lei naturalmente poi, appunto, come il libro descrive, che si sono rotte amicizie, magari di anni, da bambini, si sono rotte le amicizie, si sono rotte anche in famiglia, la fidanzata che si era fidanzata con un italiano, o magari quella famiglia aveva deciso di rimanere in Italia e l'altra famiglia invece voleva andare in Germania, quindi c'erano questi asti notevoli. Quindi qui c'è questo, io ho portato nella famiglia questa situazione difficile. Cerco di farvi capire un po', e mentre lei farà solo la parte di Eva. Però c'è questo parlare tra Olga, Martin, Armin, che sono lì mentre stanno arrivando, quindi non potrei, avrei dovuto prendere varie persone, ecco. Mamma, sta arrivando la signora Olga e suo marito Giovanni. Eva uscì dalla porta e vide le due figure con al seguito Greta, tutta trafelata. Greta era la figlia di Olga. Si abbracciarono. Come va? Abbastanza bene. Il tempo è buono, l'erba è bella grassa e stiamo facendo un bel po' di formaggio. Ecco, vedi la risposta, perché non è una risposta a caso, la risposta di Eva. Eva non è, sentirete poi invece il modo di parlare degli altri che arrivano dal paese, dalla città, da Merano. Lei dice sì, stiamo benissimo, lei anche lei vuol far finta di non sapere, di non sentire questi fatti. Noi stiamo bene, le nostre buche stanno bene, i cavalli, c'è nato il puledrino. Perché dobbiamo, nessuno mi tira via di qua, quindi la loro convinzione poi li porta a vedere solo quello. Quindi nonostante Olga la vuole mettere davanti alla realtà. Olga si accorse del suo sorriso di circostanza. Gli occhi di Eva erano lo specchio della sua anima. Hai saputo di quale disgrazia ci sta capitando? Sì, sembra che se non accettiamo di essere italiani, dobbiamo andarcene fuori dal Brennero. Quindi gli dà una risposta vaga, di dire sembra che se non accettiamo di essere italiani dobbiamo andare, ma però è una favola, quindi non glielo dice con dire preoccupata, tanto io non vado via di qui, quindi la sua mente già cerca di chiudere. Ti sbagli, Eva, da diversi giorni tutto il Sudtirolo si trova in una grande eccitazione, gli uomini bestemmiano, le donne piangono, perché tutti saranno costretti ad espatriare, fra breve saranno distribuiti dei moduli da sottoscrivere, cioè se si vuole andare in Germania oppure rimanere italiani, ma non si potrà stare in Sudtirolo, si dovrà emigrare in Italia meridionale. Pensa che le proprietà fondiarie verranno riscattate e non si sa a quale prezzo. Guardai Olga e le dissi, questo è Armin, la mamma ha detto che noi non ce ne andiamo da nessuna parte, questa è casa nostra. Quindi Armin fa l'ometto che difende sua mamma, è attaccata, la vedi che è preoccupata, i suoi sguardi, il suo animo, lo vede. Arrivò Martin, ciao Olga, sono stato a Merano. Tutti dobbiamo abbandonare la nostra terra, vedete come lui è deciso. La nostra casa e la nostra terra sono tutti pietrificati e non si riesce più a riflettere. Olga con le lacrime rispose. Pensa a tutte le lotte e i sacrifici compiuti in questi 20 anni, si sono dileguati nel nulla. La gente è molto imbestialita e la fiducia che avevano in Hitler è scemata moltissimo. Tutti dicono che ci ha venduti per i suoi interessi con Mussolini. E questo è preso nelle lettere, perché si dice proprio che Hitler ci ha venduto come una mandria di vacche. Perché effettivamente, sa, Hitler e i sudtirolesi gli è andato bene che erano tedeschi, perché mettiamo che erano ebrei, era una comunità di ebrei o di rumeni o di... Hitler li portava direttamente ad Auschwitz e aveva risolto tutti i suoi problemi. Erano tedeschi, quindi non poteva, lui voleva salvare un po' tutte le popolazioni tedesche che andava a prendere in giro dalla Polonia alla Cecoslovacchia, quindi, e poi gli servivano perché i sudtirolesi li avrebbe mandati subito, come li ha mandati subito in Russia, perché gli servivano le braccia da partare in battaglia. E poi Hitler gli faceva comodo Mussolini per il fatto che aveva lo sbocco al mare, sul mar Mediterraneo, probabilmente, questo dai libri che leggi, però non è poi una certezza, non si sa poi perché si era proprio attaccato a Mussolini. Eva non rispose. Dai Giovanni, vieni a bere un bicchiere di vino, forza. Anche te Olga, basta parlarne di cose tristi, vedrai, Dio vede e provvede. Io sono fiduciosa e se non ci penserà lui, anche a costo di vendere l'anima al diavolo, io dalla mia terra non mi muovo e non venderò a nessuno il nostro maso. Quindi Olga... Eva, lei cerca di dire, vabbè dai, vuole subito togliersi questo discorso perché è stufa, anche perché con Martin c'è sempre questo astio, purtroppo è il figlio grande e lui ogni volta che arriva parla di quello che succede a Merano, quindi è un discorso di tutti i giorni, ogni volta. Rupert era fuori dalla porta. Ciao Olga, hai qualche novità? Olga ha detto... No, ecco. Per non fare intervenire Olga, interviene Eva per dirgli non vuole far sentire a Rupert tutta questa cosa drammatica, perché sa che poi lui ci rimane male, ne soffre tutto. Allora interviene Olga. Olga ha detto che non ci sono problemi per noi contadini e che lavorerai sempre per me e per gli altri e stai tranquillo che nessuno ti manda via. Quegli occhi azzurri incastonati in quel viso segnato dal tempo lasciarono scendere una lacrima e con il magone si rivolse ad Olga. È vero che devo andare via in una terra straniera. Eva guardò con uno sguardo deciso Olga. Allora lei rispose: stai tranquillo Rupert, sono solo voci, nessuno ti manderà via, stai tranquillo. Si asciugò le lacrime con quella mano da lavoratore. Io non voglio andare via di qui, altrimenti faccio qualche brutto gesto. Tanto non ho nessuno. A quel punto Eva si irritò. Rupert, adesso basta. Non è vero che non hai nessuno. Tu hai me e tutti noi. Quindi piantala, che sono stufa di vederti piangere ogni momento. Va bene? Stavo guardando Rupert quando la mamma disse me. I suoi occhi si rasserenarono, per cui Eva era il punto di riferimento. Sorrise e si allontanò verso il recinto. Guardai quelle due donne, così diverse ma così forti, decise e responsabili per il nostro e per il loro destino. La notte fece un tema. Ecco, questo è un pezzo invece breve in cui si vede anche la funzione del clero, perché i preti erano odiati dai nazisti, quindi mentre loro dicevano state tranquilli, Dio vede, provvede e tutto, cercavano, però venivano messi al corrente ben poco, però erano dalla parte di quelli, non dico di optare per loro, erano dalla parte della loro gente, della loro gente, però non sapevano neanche loro alla fine, dice non facciamo niente, vedremo cosa succederà. La notte fece un temporale di caldo, al mattino mi svegliai quando il sole entrò dalla finestra che guardava la valle. Al sentire quel buon profumo di uova e speck rosolati, il mio stomaco cominciò a gorgogliare. Mi alzai e mi avvicinai al letto di Gabriele, era sveglia, mi salutò sorridente, le diedi un bacio sulla guancia e le dissi: dai che oggi andiamo alla cappelletta di Håkan. Ma guardo perché il mio parlare in tedesco è terribile. È una bella giornata, ci sarà una festa tradizionale, si mangia, si beve, si cantano i nostri canti. Alle 11 il prete cominciò a dire messa in latino. Una piccola folla di contadini e qualche turista tedesco stavano fuori dalla cappella. Noi ragazzi eravamo vicini alla mamma, che teneva per mano Edoardo, che ultimamente era stato messo in castigo a fare i compiti, perché continuava ad allontanarsi in posti pericolosi, senza dire a nessuno dove andava. Per ben due volte eravamo stati costretti ad abbandonare ogni faccenda per andare a cercarlo. Olga e Giovanni, che non parlava mai ed era sempre contento, Giovanni il marito di Olga, erano attenti ad ascoltare la predica del prete, che arrivava da Parcins, e che subito iniziò a parlare. Siamo tristi per questa disgrazia caduta su tutti noi. Questo succede perché, invece di ascoltare le nostre prediche e stare tranquilli seguendo le parole del Vangelo, troppi hanno ascoltato quegli agenti stranieri sobillatori e per causa loro sono state commesse cose addirittura pazzesche. E adesso, come al solito, devono soffrire gli innocenti. Noi sacerdoti che ci saremmo opposti non siamo stati neanche informati. Si sentirono alcuni mugugni. Il prete si zittì. Guardò ognuno di noi con una faccia truce, poi rispose: allora vi va bene vendere tutto, trasferire le vostre famiglie in Germania? E poi cosa farete? Come vivrete? Porterete via il lavoro a qualcun altro e il pane a qualcun altro. Vi chiameranno mangiapane a tradimento. E visto che il mondo è in pieno subbuglio, quando questo pane diminuirà, vi diranno di tornare da dove siete venuti. Così i sudtirolesi diventeranno nomadi. Se vi va bene così, allora mugugnate pure. Sappiate che Dio vi vuole bene, lo avete sempre rispettato, il tempo e il suo volere faranno ciò che è giusto per la nostra gente. Dopo l'inverno torna sempre l'estate, abbiate fede. Un silenzioso rispetto ci avvolse fino all'amen finale. Ecco, questo è un pezzo per far vedere questa gente era colpita da tante... passaparola, c'era una propaganda nazista terribile, continua, voi siete tedeschi, non potete essere italiani, non potete rimanere qui, quindi venivano veramente, da quello che si capisce, poi dalle lettere e dalla parte proprio storica, perché questi libri rappresentano la storia, oltre che alla storia raccontata, rappresentano le persone. Quindi meglio di questi libri non possono raccontare quello che c'è stato allora. Ritengo che non c'è nessun libro di testo che sia in grado, perché potrà raccontarlo, ma qui sono le persone che si scrivono tra figlio e papà, la mamma, quindi sono cose che escono dal cuore, sono intercettazioni, come si può dire oggi, mentre parlavano al telefono. Quindi tu gli dici le cose che senti, nonostante sapevano che c'era la censura, e si sono rimaste solo perché erano in tedesco, perché anche da noi i fascisti, anche a Novara, anche a Milano, aprivano le lettere, però erano in italiano, le leggevano, le rimettevano dentro e arrivavano, nessuno sapeva niente, arrivavano al destinatario. Qui erano in tedesco e quindi dovevano farle avere a Roma nessuno sapeva il tedesco, dovevano tradurre in italiano. Quindi a Roma sono rimaste. E poi il dottor Fabrizio Miori, che è un commercialista qua di Bolzano, è andato a cercare queste lettere, le ha recuperate con pazienza e ha fatto questi libri. Adesso dove siamo? 204. Ecco, adesso è il pezzo. Sì. Ecco, questo è l'ultimo, il pezzo dove c'è proprio lo scontro tra Eva e Martin. È uno scontro. Ho quasi finito, eh. Arrivarono tutti accaldati, mi fecero un cenno obbligato di saluto, si rinfrescarono, io rimasi da solo e mi diressi verso il mio campo base, ormai quasi mezzogiorno, era quasi mezzogiorno, vedi, lui se ne va e rimase Martin con Caroline, la sua fidanzata. Ciao Martin, dissi, lui mi salutò un po' trafelato, ciao Armin, hai visto che è venuta anche Caroline? Beve alla fontana, dobbiamo parlare per le scelte da prendere per il futuro della nostra famiglia. Uscì la mamma. Ciao Martin, ciao Caroline. Su, venite dentro che ho preparato i canederli. Avrete fame, penso. Entrammo tutti. La mamma mandò Edoardo a chiamare Rupert. Qualche nuvola cominciava a girare sulla vallata. Il sole andava e veniva. Iniziamo a mangiare. La mamma si rivolse a Caroline. Come mai sei venuta fino quassù? Rimani qualche giorno? Lei la guardò, poi come ebbe finito di deglutire rispose. La ringrazio signora Eva, Martin vuole stare fino a domani, siamo venuti per mettervi al corrente di ciò che è stato deciso che dovremo fare nei prossimi mesi. Che cosa dovremmo fare noi? Eva appunto dice cosa dovremmo fare. Martin intervenne, dobbiamo optare per la Germania in massa, così questi porci di italiani rimarranno qua da soli, tra i sassi, perché questa terra in mano loro diventerà solo un deserto di sterpaglia e rovi. La mamma non parlò, lasciò continuare Caroline. Signora, ormai la situazione in cui ci troviamo adesso comincia ad essere cattiva, nessun sudtirolese tedesco può più trovare lavoro, tutte le aziende hanno sospeso le loro commissioni. Ormai regna la disoccupazione. Anche mio padre, che lavorava come direttore in un grande albergo a Bolzano, è stato licenziato per mancanza di lavoro, dicono. La mamma rispose. Sono anch'io al corrente. Umberto è molto informato e ci ha spiegato bene la situazione. Per noi, contadini e allevatori, la situazione è molto diversa. Non ci lasceranno andare via. Siamo troppo importanti per loro. Martin rispose con tono molto irritato. Esatto, che Umberto, questo italiano, lui leggeva sempre sul Corriere, quindi si era informato di questa situazione, quindi faceva sapere un po' come erano le cose. Cosa vuoi che sappia quell'italiano? Anzi, non capisco cosa è venuto a fare qui da noi. In ogni modo si sa che i contadini sudtirolesi comprendono l'importanza della patria. Però quasi tutti ormai, piuttosto che farsi italiani, faranno il grande sacrificio ed emigreranno. Le autorità italiane cercano con ogni mezzo di persuadere i contadini a rimanere qui, ma li deridono, dicendo che loro sono tedeschi e piuttosto andranno in capo al mondo pur di non restare con questi cani di italiani, che gli stanno rovinando la vita giorno per giorno. Intervenne Canolin come a dare manforte... No, parte, quindi... Allora scusate. Martin, quello che si decide per la famiglia lo decido io. Per cui io da qui non mi muoverò, chiaro? Piuttosto che andare in paesi nuovi, sarà meglio restare nel proprio paese, visto che la nostra patria ormai fa la parte dell'Italia. Diventeremo italiani, parleremo l'italiano e la nostra lingua, manterremo le nostre tradizioni tedesche, dovranno alla fine accettarci così come siamo, visto che è scontato che avranno bisogno di noi. Carolina rispose con deciso disprezzo. I miei genitori dicono che non diventeranno mai italiani, anzi, hanno già deciso come aprono gli uffici per le opzioni, opteranno per il Reich. Martin partì subito all'attacco. Guarda che lo hanno detto chiaro, che chi opta per l'Italia dovrà andare nelle province sotto il Po, o addirittura in Sicilia, o in Abissinia. Diventerai una brava mafiosa siciliana, gli dice subito a disprezzo. Ah già, che voi siete ben informati da questo italiano vagabondo. Chissà se lavora veramente dove ha detto, è una spia sobillatrice dei fascisti. Magari è interessato al nostro maso e pensa di comprarlo con 4 soldi. Naturalmente Martin è abituato a pensare sempre male, perché l'italiano è peggio quello che ci possa essere al mondo. Quindi, e questo viene fatto da una propaganda continua, quindi è logico, un diciottenne acquisisce queste cose, quindi per lui diventano vere, anche se sono solo parole. In questa casa sono io che decido quali sono le persone che possono frequentarla. Il signor Umberto ha deciso di aiutarci e noi abbiamo un grande bisogno di aiuto. Se no, non ce la facciamo. Io sono positiva e vedo le cose buone che arrivano nella nostra famiglia. Se era una cattiva persona, non gli avrei permesso di stare qui con noi. Poi si recò nell'altra camera e uscì con un libro scolastico, lo appoggiò sul tavolo e lo aprì. Era scritto in italiano, era stampato con la stessa carta che Umberto usava per i bigliettini con Edoardo. Lo presi e vidi le foto in bianco e nero della nostra famiglia mentre saliva la malga, mentre facevano abbeverare le mucche, mentre la mamma accompagnava i cavalli e mentre si preparava il formaggio. Il tutto con articoli specifici. Sulla copertina era scritto «Le regioni d'Italia». Nella parte a noi dedicata il titolo era «Alpigiani del Sud Tirolo, cuori pulsanti tra pascoli e cielo». Questo era il libro fatto da De Agostini che lui aveva portato su, che era andato su. Lo tradussi alla mamma, lei non disse più niente. Martin si alzò in piedi, si abbassò per verificare. Poi guardò la mamma e disse «Spero che non ti sia invaghita di questo bravo italiano, perché il povero papà si girerebbe nella tomba». Fu un attimo, Martin ricevette uno schiaffo che dovette appoggiarsi al tavolo per non sbilanciarsi e cadere. La mamma lo guardò in tono di sfida. «Lascia stare papà, che ormai non c'è più da 10 anni. Io penso che si rivolterà nella tomba nel momento in cui hai deciso di abbandonare il maso costruito dai nostri avi da oltre 800 anni per ascoltare dai fanatici nazisti». Lui era sconcertato per lo schiaffo ricevuto, oltre più davanti alla sua ragazza, che rimase allibita. Intanto la mamma continuò. «Io sono una donna sola, che non deve renderne conto né a te né a nessun altro dai rapporti che ho con altre persone, siano italiani, tedeschi, inglesi e francesi. Fino ad ora ho fatto il mio dovere di madre. Mi sono fatto anni di lavoro per mantenere e educare voi e tenere vivo questo maso con i suoi animali». Martin, che si era ripreso, si rivolse alla mamma. «Non ti permetto di mettermi le mani addosso. Ormai ho 18 anni e non mi sono mai tirato indietro davanti al lavoro. Sono rientrato oggi dopo 3 giorni di fieno, sotto il sole e sotto l'acqua. Sei una povera illusa. Con questo lavoro non riusciremo più a mantenerci tutti, vedrai. Visto che non hai un marito, i fascisti ti obbligheranno a vendere per 4 lire a qualche italiano raccomandato, con la scusa che da sola non potrai renderlo produttivo». A quel punto la mamma si rattristò. Era troppo provata da tutte quelle parole di astio, di incertezza futura. Mentre una lacrima le scendeva sul volto, con un magone evidente disse: «Non lo permetterò, dovranno uccidermi». A quel punto Rupert, che aveva ascoltato tutto, iniziò a singhiozzare dicendo: «Mi farò uccidere anch'io, o farò da solo piuttosto che andare via dalla mia patria e dalle mie montagne». Ecco, questo è appunto rapporto, gli umori, l'anima, i sentimenti di odio e di amore direttamente in queste persone. per cui non tutti, perché ci sono delle lettere che dicevano ma voi siete matti, andare in Germania, si sta così bene in Italia, cioè tutto, quindi non tutti la pensano così, ma i contadini in ogni modo gli interessava la loro terra, poteva esserci chiunque, però le loro terre, le loro bestie, quindi non avrebbero mai optato per andare via chissà dove. Quindi ecco, il libro poi continua, racconta questa storia d'amore tra questo Umberto che prima è nascosta e poi viene fuori e viene col tempo, per un fatto drammatico, accettato anche da Martin, non viene accettato naturalmente dalla popolazione, non viene accettato dalla gente, quindi c'è tutto questo astio. Vengono inseriti anche i carabinieri, perché i carabinieri allora avevano dato una mano alla popolazione sudtirolese. Ci sono dei proclami dei carabinieri che dicono ma è una vergogna dover trasferire della gente in questo modo senza che abbiano fatto nulla di male, perché solo parlano il tedesco. A questo punto parlano il dialetto come lo parlano in tutta l'Italia, che vai in certi posti dove non capisci niente, anche se vai a Napoli, che parlano il dialetto napoletano. Quindi, e c'è proprio questo personaggio siciliano, carabiniere, naturalmente inventato, però fa parte, racconta un po', mette in evidenza l'animo che c'era da parte di alcuni carabinieri, non dico tutti, ma di alcuni carabinieri. Appunto, anche suo padre conosceva i carabinieri e erano amici, avevano un rapporto ottimo con i carabinieri lì di Merano. Quindi da lì, poi leggi le lettere, ho voluto inserire. E anche Armin, cioè lui entra nella famiglia, perché dopo questo fatto drammatico che succede viene a conoscenza, anche se aveva già arrestato all'inizio, quando all'inizio si parla, già arrestato Martin, perché allora se tu cantavi, facevi queste feste su tirolesi vestiti con le calze bianche, con i loro vestiti caratteristici, ti potevano arrestare perché era contro il regime, perché loro dovevano essere buoni italiani nell'Italia romana. Quindi questo era il messaggio di allora. Quindi il libro poi appunto è dedicato a queste persone, a tutti gli optanti, sia che odiavano gli italiani che non li odiavano, ormai non ci sono più. Quindi il libro finisce proprio con questa frase che ho voluto dire: quando avrete letto questo libro, fate che il soffio del vento lo sfogli per qualche minuto, le anime degli optanti capiranno che avrete capito. Quindi è per far spiegare, nello stesso per maturare un po' tutti noi, perché tante volte vieni su Tirolo e effettivamente la realtà è quella, noi siamo stati, tante volte non ti parlano, non ti guardano neanche, però magari anche per paura, come mi dice lei. Noi siamo stati l'altro giorno qui a Bolzano, siamo andati su a San Genesio e ho chiesto a dei ragazzi che erano lì al pullman, gli ho chiesto: mi sapete dire se c'è un ristorante qui vicino, perché ormai era l'una, e niente, non mi hanno risposto. Si sono guardati tra di loro, hanno riso, hanno detto due cose in tedesco e non mi hanno risposto. Lei mi dice che forse perché, magari non parlando l'italiano, come quando magari sei fuori e parli in inglese, hai paura di dire qualche stupidata, perché hai paura di parlare male, perché anche i suoi figli, adesso loro vanno spesso anche in ferie, vanno apposta proprio dove ci sono solo italiani, perché adesso hanno imparato bene l'italiano, però loro in casa parlano il tedesco. Quindi anche i suoi figli, quando sentivo quello grande, già l'anno scorso, i primi anni, sembrava proprio non un italiano, ecco, da come parlava, perché in casa parlano, come una volta parlavano il dialetto, e quindi la gente parlava dialetto, e anche mia moglie è una maestra, e quindi vedevi proprio nei temi che era scritto in dialetto invece di essere scritto in italiano, perché in casa anche i suoi parenti parlavano solo dialetto, quindi neanche l'italiano lo sapeva, come anche a Cremona i miei nonni l'italiano non lo sapevano. Quindi è un libro che racconta questa storia, nello stesso tempo racconta la storia, quindi viva, vissuta. Magari ci saranno anche delle imprecisioni, però la realtà è vera, perché le lettere, tutte le, io le ho prese proprio dalle lettere, poi a parte alcune particolarità, però il messaggio c'è. Quindi chi vuole recepire e poi ama la montagna, chi ama la montagna è un libro che ti affascina, perché effettivamente la montagna è viva, tutto è vivo, dai torrenti, dalle piante, dai tutto. Quindi questo, anche se è una montagna che io conosco pochissimo, alla Malga ci sono andato una volta, dove è descritto questa storia. Però niente, poi queste cose le senti e quindi le fai e le scrivi. Ecco, niente, sono contento di essere venuto a Bolzano, perché questo libro era stato proprio... Adesso sto aspettando, speriamo, Merano, che mi facciano fare una presentazione, però mi avevano detto che c'era le elezioni provinciali, questa questione lì ancora peggio, etnica, quindi già solo parlare delle opzioni sono problemi. Quindi sono andato alla libreria che ho portato a Bolzano i libri, che mi ha accettato benissimo, soprattutto la parte tedesca, mentre quella italiana già un po' meno, perché subito l'italiana, questa signora mi dice, non è stato proprio così, però io più che leggere le lettere e leggere la storia, non è che mi sono inventato le storie sono vere, successe, datate poi, le lettere sono tutte datate, con tutti i fatti, quindi non è che mancava solo l'ora e il minuto, quindi... però adesso sto aspettando, oggi sono andato, hanno detto che gli ha dato ancora l'autorizzazione lì a Merano, a questa Meraner, come questa associazione, adesso vediamo se mi faranno presentare, perché ci tenevo, tanto per far conoscere il messaggio, che non è un messaggio assolutamente politico ma umano, quindi c'è solo umanità e basta. Ok, grazie. Sì, dimmi. Scusate, io rappresento la Fabbrica del Tempo, che è l'autrice di quel libro. Questi verde, libri, questi due libri. Libri che hanno, io sono solo la detta stampa, ma comunque i miei colleghi ci hanno messo anni a raccogliere queste lettere, e noi abbiamo fatto questi libri per restituire in qualche modo la memoria attraverso le storie delle persone, cosa c'è di meglio che per rimanere sul neutro, insomma, di dare solo le testimonianze. Insomma. E noi siamo, insomma, contenti, onorati che, insomma, Gianluca Rossi sia stato, come dire, ispirato, portato, insomma, si sia emozionato davanti a queste lettere che sono vere, infatti sono effettive. Esatto, perché io quando poi l'ho letto, l'ho scritto. Ringraziamo di aver scritto comunque, di aver dato in qualche modo forma, perché in effetti io oltretutto personalmente sono figlia di un ottante, quindi la storia anche della vita della mia famiglia, quindi... Quindi sì, hai vissuto, più o meno loro hanno vissuto. Assolutamente, i racconti sono quelli, la propaganda, dove si respirava tutto vero. Insomma, certo. Ti ringrazio. Io ho vissuto quel periodo, ero una giovane impiegata all'ufficio ottanti. Ah. Dovevo compilare le schede per questi ottanti. E alla fine del libro c'è una frase che ho tolto dal mio diario, in fondo conclude con la signora Vita. Ah, la Vita, certo. Esatto, c'è una bellissima foto anche di una signora che era di una ragazza. Sì, parla di questo periodo. Quindi senz'altro proprio molto più, diciamo, io per forse io ho preso e nello stesso tempo mi sono spostato con il pensiero di certa popolazione, quindi l'ho vista su una, anche perché non sarei stato in grado di fare un libro di una persona ambientata a Merano, quindi anche solo dalle lettere non sarei stato in grado. Quindi un diario per cui trascrivo quello che avevo scritto allora, magari non esatto, perché secondo quello che si captava, certo. Dice il 90% migliore, ma ha detto il 90% sì, poi lui è stato, le ha lette tutte, quindi è preciso, è logico. Mi contestava Miori questo, quando Umberto va, dopo il dramma che c'è stato, che andava a Merano, viene assalito, dato che io avevo letto che c'era stata gente assalita, pestata, pestaggi da parte sia dei nazisti, e ho voluto mettere anche questo pezzo drammatico che viene inseguito, perché lui vedevano che era filo su tirolese, quindi l'ho voluto inserire per creare un po' di vita, esatto, di vita anche al fatto, poi il fatto che loro sono stati aggrediti, che c'è stata questa aggressione, effettivamente ci sono state a popolazioni, anche al prete c'è stata un'aggressione con incendi, che incendiavano le porte delle famiglie, quindi i nazisti. Quindi, bene, sono contento comunque che almeno vi avete ascoltato e vi davo questo in... Sì. Questo grazie, ho letto il suo libro. Ma l'ha letto? Sì. Ah. Però, io invece vi chiedo una cosa. Io ci ho